picciuti è Cosa? morto. Sui bordi delle strade picciuti è morto. Io devo staccare. Nei bar di Venafro picciuti è morto. Ciao Aldo, che bagonata, tante cose. Ma dove è il bar? Da Carminuccio?